è uno ska, ballatelo molto. La notizia è arrivata come un fulmine caduta. Superman è morto, un overdose di criptonite. Chi ci salverà dalla criminalità? Nessuno mai potrà, se nessuno mai potrà. Fai quel che vuoi, cazzo, non c'è nessuno che può farti il mazzo. Vandalizzo, bevi, parla finché vuoi. L'unico freno è lo schiamo dei tuoi. Senza regole, senza pare, senza eroi. Zero mode, sempre solo i cazzi tuoi. Ma stai attento, nessuno ti risolverà i casini. Da solo a piedi in una giungla di cretini. Fai quel che vuoi, cazzo. Non c'è nessuno che può farti il mazzo. Fatalito per